questa fasce patrono crudele, quanta sospira mai fatta gittare, ma da sto cuore come una candela, bella quando te senta nominare, oi piglia l'esperienza della neve, la neve fresca e se fa maniare. E tu con me si tanta sprecrudele, morta ma vire non vuoi aiutare. Lancella chi venne acqua per mene i ragisti palazzotti belli femmane me a chi acqua se vota nannella dall'angolo. Estu ninna cava venera acqua e tia risponna cu parola corte sulla grammar amore e non ne acqua sulla grammar amore.